che ti dondoli sulle labbra tue e le mie dita, quasi a dire fai silenzio, per me sarà finita. Non ci sentirà l'inferno, non ci sente neanche Dio. Forse non ti ho detto tutto, amore mio, ed avevo la paura di chi rompe un patto sacro. Il futuro lo vedevo ed ero pronto anche al massacro. Ero pronto al pugno in faccia quando tu mi hai detto addio. Forse non ti ho detto tutto, amore mio. Na na na. Forse è solo il caso di ricominciare, forse è solo il caso di lasciarsi andare, forse è solo il caso di spronare il mio riavvio. Questo è quanto ti dovevo, amore mio. Na na na.